del suo tasso di gioia. Ho sui fatti alla noia, viviamo così, mondi sommersi tutti da scoprire, un cambio graduale, che sia dentro sia fuori, non è facile per mantenere chiare qua parole e suoni giocando col domani. È magica la luce che disegna le ombre, è magica la mente dove nasce la curiosità. Per cercare la gioia, mi aiuterebbe a concentrare meglio l'energia, a rompere le acque della casa nostalgia, vedere con i miei occhi e sentire chiare qua. Allegria dipende dai tuoi occhi, da come sai come